Entrare nella camera del nonno era come tornare in una gabbia. La stanza era surriscaldata, il tanfo era grande. Tutti i membri della famiglia vi si erano dati convegno, meno la nonna. La mamma piangeva adagio, il tondo faccione appariva gonfio, le guance le tremavano. Il nonno sedeva impettito sulla sua poltrona con uno dei sigari che amava fra il pollice e l'indice, ma non fumava. Aiko, in piedi, si reggeva la tavola con le mani e la testa ciondoloni. Prima di aprire la porta, Aiwan sentì il padre che gridava. Al suo ingresso il genitore tacque e tutti guardarono Aiwan, meno Aiko che non si mosse. Subito il padre riprese, questa volta indirizzandosi ad Aiwan. Tu, proprio tu, dove sei stato? La mezzanotte è passata da un pezzo, ma chissà perché io ripongo maggior fiducia nel secondo che nel primogenito. Dove sei stato? A far visita a un compagno di scuola, rispose Aiwan, guardando di sfuggita Aiko. Notò che suo fratello, ora che suo padre non lo guardava, aveva cavato fuori il fazzoletto e si asciugava gli occhi dopo essersi soffiato il naso. Nonostante il suo disgusto, Aiwan provò una specie di pietà per Aiko. Era orribile che un giovanotto si mostrasse così debole e frignante. Avevano fatto di Aiko una creatura inutile e non era certo tutta colpa sua, se si era ridotto così. Fra sé si disse che conveniva per aiutare Aiko a tirare in pieno su di sé l'attenzione del padre. La luna è così chiara, disse, che il mio amico ha lasciato la sua cella nel dormitorio dell'università per uscire con me a fare una passeggiata. Non cercare di farmi credere che hai finito così la serata, gli gridò suo padre. Abbiamo conversato a lungo. Poi il mio amico è rientrato e in quanto a me, eccomi qua, precisò con calma Iwan. Dovresti credergli, interloquì la madre con una delle uscite improvvise che le erano abituali. Dovresti prestar fede ad Aiwan perché è un bravo ragazzo. Ah, dici sempre che i tuoi figli sono bravi, le gridò il marito. 2 mesi fa mi accorsi di qualche irregolarità nella banca, ma no, tu insistevi, ma no, Aiko è tanto buono, non può far del male, Aiko. E così tutti conoscevano la magagna, mentre io sono stato lo zimbello di mio figlio. Parlando aveva imitato caricaturalmente la voce in falsetto della moglie e quella cominciò a piangere e Aiko chinò di nuovo il capo. Aiko, ordinò il nonno, siedi. Aiko sedette al tavolo senza alzare gli occhi. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Domandò il nonno. A me pare che tu non te ne renda conto. Non ho poi commesso un delitto, mormorò sordamente Aiko. E il padre sobbalzò. Come? Come? Domandò. Calmati, ordinò il vecchio. Tocca a me parlare. Aiko, ti sei impossessato di una forte somma che non ti apparteneva. Aiko non rispose subito, poi disse con la medesima voce sorda: Ma mio padre è presidente della banca. Aiwan vide suo padre serrare le labbra senza pronunciar verbo. Il nonno portò la mano al capo. Sai di chi è il denaro depositato alla banca? Domandò. È denaro altrui, di proprietà di molta gente. C'è persino denaro del governo alla banca. La gente si fida di tuo padre e si fidava di suo figlio. Tutto nella stanza era silenzio. La voce del vecchio echeggiava severa. Aiwan pensò: Aiko ha fatto questo. Perché hai fatto una cosa simile, Aiko? Scattò. Del denaro ne hai sempre avuto finché ne volevi. Vide che il fratello lo guardava di sottecchi con espressione ostile, ma senza far motto. Perché hai fatto una cosa simile? Urlò improvvisamente suo padre di rincalzo. Tutti te lo abbiamo domandato, anche Aiwan. Ti ho forse mai negato qualche cosa? Non avevi che da venire da me e chiedermi quel che ti occorreva? Non volevo chiedervelo, rispose Aiko con le spalle al muro. Seguì un silenzio. Tutti fissavano il colpevole. Egli a sua volta guardò a uno i presenti. Gli è che... cominciò. Si fermò e poi continuò precipitosamente. Io non ho preso tutto in una volta e per qualche cosa di definito. Se lì diceva facciamo questo o quest'altro, piccole cose, non so. E poiché non aveva denaro, diceva, Aiko, tu hai sempre molto denaro in contanti. Tutti dicevano così. E io avevo vergogna di far capire che non ne avevo come credevano. Piagnucolava di nuovo, i lisci capelli gli ciondolavano sulla faccia, si volse verso suo padre e proseguì: Voi domandate perché non mi rivolgevo a voi. Gli è che voi mi avreste rimproverato, mi rimproverate sempre. Ho preferito prendere il denaro piuttosto che essere costretto a chiedervelo e sentirvi gridare ancora, ancora. È vero, esclamò la madre rivolta al marito. Sei sempre stato così duro con lui. E chi altro in questa casa si sarebbe curato di salvarlo? Le gridò in risposta al marito. Ha troppe donne attorno che lo guastano, che gli insegnano a fingere e a mentire, facendo mostra di obbedirmi mentre io sono qui. Tua è la colpa. Le donne come te sono le vere colpevoli di tutta la corruzione del paese. Credi che io non sappia? Anche io. Ero il figlio di un ricco in una casa piena di donne e di schiave. Aiwan non fiatò. La sua vita ora era altrove e crollasse pure la casa, egli non sarebbe stato trascinato nella rovina. Ma quando suo padre ebbe detto a sua madre quelle parole, provò per lui una specie di curiosità e si domandò perché, dunque, anche suo padre non fosse viziato come Aiko. Qualche cosa era intervenuto a salvare suo padre, proprio come qualche cosa aveva salvato lui. Le letture di certi libri, poi l'incontro con Enlan, l'appartenenza al gruppo dei cospiratori e infine gli incontri con gli operai degli stabilimenti. Insomma, era la rivoluzione che lo aveva salvato, che lo salvava. Che cosa posso fare di te, Aiko? Domandò il padre con voce improvvisamente triste. Che cosa può fare un padre di un figlio indegno? Il nonno interloquì. Comunque sia, è sempre tuo figlio e mio nipote. Dobbiamo restituire il denaro e dopodiché mandiamolo all'estero a frequentare una scuola dove debba lavorare lontano dalle male compagnie. Aiko non disse verbo, ma Aiwan capì che aspettava che il padre parlasse. Certo, l'estero è il miglior ripiego, intervenne la madre col tono ansioso che le era abituale. Nessuno saprà niente dell'accaduto. Tanti giovani vanno a studiare all'estero oggigiorno, è proprio quello che ci vuole. Coprite, celate, disse con amarezza il padre. Ecco il sistema. Nessuno deve saperne nulla e così egli non riuscirà mai a capire la differenza che corre fra il bene e il male. Non lo farò mai più, mormorò Aiko. Ho imparato, sono pronto a fare tutto quello che mi direte di fare. Il padre scattò in piedi. Vattene, lontano dai miei occhi, disse senza più scoppi di voce, con tono sordo e freddo. Fai su il tuo fagotto. Andrai in Germania, ti destino a una scuola militare dove si vedrà che cosa si potrà fare di te. Provvederò a farti acquistare il biglietto per evitare che tu spenda in altro modo il denaro. Giusto, giusto, annuì il nonno. Ben pensata, i tedeschi gli insegneranno a dovere. Vattene, ordinò il padre ad Aiko. Senza aprir bocca, Aiko si volse e uscì. I presenti lo udirono attraversare l'atrio, poi aprire e chiudere la porta della sua camera. Ci fu una lunga pausa. Poi il nonno accese un fiammifero, accese il sigaro e fumò per un momento. Nessuno parlava, in attesa che parlasse lui. Vado a letto, egli disse finalmente alzandosi. Ti accompagno, disse suo figlio. No, no, rispose il vecchio, posso andare da solo. Quando la porta si chiuse anche dietro di lui, il padre di Aiwan si volse alla moglie. Vuoi ritirarti? Domandò. Ella intese che la domanda equivaleva a un ordine, s'alzò asciugandosi gli occhi e si ritirò nella stanza attigua. Aiwan, che si era alzato durante l'uscita del nonno e della madre, restò ora solo con suo padre. Siedi, gli disse questi. Egli sedette, suo padre lo guardò. Vuoi occupare il posto di tuo fratello? Gli domandò brusco, gingillandosi nervosamente con un fermacarte foggiato a forma di pagoda. Gli occhi di Aiwan erano fissi sulle mani forti e leggere di suo padre. Erano mani potenti, per quanto la carne che le ricopriva fosse morbida come la guancia di peonia. Sentì suo padre vicino come non mai. La condotta di Aiko aveva certo aperta in lui una ferita profonda. Si vedeva che aveva bisogno di conforto. Pensò, vorrei potergli raccontare tutto. Ma la soggezione che si interpone fra le diverse generazioni non gli consentì di aprir bocca. Era impossibile, del resto, dimenticare che suo padre era pur l'uomo di sempre e che se una cosa non gli piaceva non c'era verso che la capisse, per quanto buona fosse. Perciò dominò il suo impulso di confidarsi, ma non poteva non rispondere in qualche modo. Perciò domandò il permesso di riflettere. Avrebbe dato una risposta alla fine dell'anno scolastico. Prima d'allora, pensò, un mondo nuovo sarebbe sorto. Suo padre lo guardò e assentì col capo. Così sia, disse. Ora Vattene anche tu, non so proprio come si possano desiderare dei figli al giorno d'oggi. In passato se ne avevano, nella speranza di un conforto nell'età senile, ma ora chi può sperare conforto dai giovani? S'alzò e senza più guardare Aiwan si ritirò anche lui. Aiwan, rimasto solo, tornò alla sua stanza. Suo padre, al quale aveva sempre pensato come ad un uomo orgoglioso, soddisfatto e in grado di appagarsi qualsiasi desiderio, si rivelava ora in una luce diversa. Egli non era né orgoglioso né soddisfatto e non aveva quello che desiderava. Pensò, perplesso, non basta, non basta dare all'uomo il cibo, non basta dargli denaro abbastanza per i suoi bisogni. Gli operai degli stabilimenti avevano bisogno di mangiare, volevano un asilo, dopodiché, dicevano, sarebbero stati felici, ma molta, troppa gente aveva tutte quelle cose e tuttavia non era felice. Quale beneficio avrebbe arrecato ad essa la rivoluzione? Così, meditando, aprì la porta della sua camera. Vi trovò Peonia seduta al tavolo in attesa. Il bel visino ovale aveva un'espressione solenne. Che cosa c'è? Gli bisbigliò. Aiqua ha forse ucciso qualcuno? No, rispose Iwan, non è questo. E allora che cos'è? Insistette lei. So che è successo qualcosa di grosso. La tua nonna non fa che piangere. Dice che tuo padre voleva picchiare a sangue Aiko. Niente, niente, rispose con sarcasmo Aiwan. Sarà soltanto mandato all'estero. All'estero? Esclamò con gioia Peonia. Subito! Aiwan fece cenno di sì. Allora ha ucciso qualcuno, esclamò Peonia. Sono certa che ha ammazzato qualcuno. No, ti dico. No, ha soltanto preso del denaro. Dalla banca? Sì, ma perché lo odi così? Non te lo posso dire, rispose Peonia. Non voglio dirtelo, non puoi immaginarti come sia stata dura per me la vita di schiava in questa casa con Aiko che cresceva e sempre in casa invece di essere a scuola. Volse il capo dall'altra parte. Non sei mica stata trattata come una schiava, disse Iwan. Non lo sai, esclamò lei con passione. Non sai niente tu di me. Con sua stupefazione la vide coprirsi la faccia con le mani e scoppiare in singhiozzi. Egli la guardò un po' smarrito. Non piangere, Peonia, disse, ti prego di non piangere. Ma lei continuava a piangere, scossa dai singulti. Sono stata nient'altro che una schiava con una vecchia che mi ordinava per dritto e per traverso, che mi faceva alzare di notte perché le grattassi le gambe stecchite e le preparassi l'oppio. Sono così nauseata da quell'odore. Nemmeno tu puoi soffrirlo? Domandò Iwan. Nemmeno io, singhiozzò Peonia. Quando rientro in camera mia mi sento male, ma a quell'odore devo tornare e tua madre non mi dà pace. Ma perché? Domandò Iwan, che cominciava a intravedere tutta una vita che si era andata svolgendo sotto il suo stesso tetto senza che egli se ne accorgesse. Peonia smise di piangere. Perché? Ma per colpa di Aiko! Disse con voce bassa e irosa: tua madre dice che debbo fare quel che vuole Aiko. E chi sono io, dice, se non una schiava? Mia madre ti ha detto questo? Aiwan la guardò sbalordito, il cuore che gli tonfava sordo e lento nel petto. Peonia assentì. Ma tu non ti sei mica piegata? Ella scosse il capo. Mi è venuto in mente di mangiare un po' di oppio e così finirla, dichiarò. Ci ho pensato molte volte. Che scopo, infatti, ho ormai di vivere. Io non sono mica una serva da sentirmi felice e contenta fra le serve. Mi hanno insegnato ad essere qualcosa di più e tuttavia non abbastanza per essere libera. Immagino che tu pensi che io dovrei essere grata a tua madre per avermi fatto imparare con te a leggere e scrivere. Infatti, grata ero, ma ora non più. Così fossi stata lasciata nell'ignoranza. Se il mio destino non ha da essere migliore di questo, avrei potuto sposare qualcuno, qualcuno dei ranghi più infimi ed esserne contenta. E invece, ah, è male insegnare alla gente che ci sono delle cose buone nella vita per poi negargliele. Aiwan non poté articolar parola. Peoni aveva vissuto per anni in quelle condizioni, senza che lui ne sapesse nulla. Aveva sempre creduto che ella fosse contenta e ben trattata, che il suo unico compito fosse quello di servire in casa in cambio del buon trattamento. E invece ora capiva quello che ella voleva dire quando si proclamava non libera. quella casa nella quale aveva da mangiare in abbondanza e robe di seta di cui vestirsi era in realtà né più né meno che una prigione. Pensò, anche lei ha bisogno della rivoluzione per avere la libertà, e lì per lì decise di raccontare tutto a Peonia. Peonia, cominciò, ora il cuore gli batteva precipitosamente nel petto. Ella lo guardò. Ho da dirti qualche cosa, continuò lui. Sì? Che cosa? Peonia, non hai mai sentito parlare della rivoluzione? Certo, disse lei. Non è una cosa buona, ne ho sentito parlare da tuo padre, disse che i rivoluzionari sono dei banditi. Non è vero, esclamò Aiwan. E come lo sai? Le avrebbe detto tutto col cuore in mano, perché sono uno dei loro. Si guardarono reciprocamente senza muoversi. Aiwan, mormorò la ragazza. Egli confermò col capo, se tuo padre sapesse. Ti condannerebbe più severamente di quel che non condanni Aiko. Quella frase lo colpì. Credo che tu abbia ragione, convenne. Non gli devi dire mai nulla, esclamò Peonia. Oh, così tu non avessi detto nulla neppure a me. È come se tu mi avessi affidato la tua vita. Aiwan, ti uccideranno. Come mai hai osato? Egli cominciò a raccontarle tutto. Le raccontò di Enlan, del gruppo dei cospiratori, degli stabilimenti. Ella ascoltava senza un gesto né una parola, mentre egli le parlava come non aveva mai parlato ad anima viva, nemmeno ad Enlan, per la cieca fiducia che gli ispirava Peonia, davanti alla quale non aveva timidezze. Ma lo strano era che, nonché a Peonia, parlava a se stesso, esprimendo tutta la sua fede nell'avvenire. Quando deve succedere tutto questo? Gli domandò Peonia. Presto, sussurrò lui. Non appena Chiang Kai-shek arrivi. Lei lo guardò fisso un momento, poi fece spallucce. Non ci credo, dichiarò. Non ci credi? Peonia, è la verità. Lo so che per te è la verità, ribatté lei, ma tu non sei che un ragazzo. Io non credo che ci sia della gente che operi per nulla e solo per l'altrui beneficio. Tutti quei tuoi rivoluzionari, che cosa sono poi se non gente come tutta l'altra gente? Non li conosci, insistette lui. Le tue conoscenze non sono mai andate oltre la cerchia di gente come la mia famiglia. Naturalmente tu pensi che tutti siano egoisti, ma ciò dipende dal fatto che tu prendi ad esempio soltanto i capitalisti. Non so che cosa tu intenda per capitalisti, osservò Peonia, facendo boccuccia, ma io so questo, tuttavia, che quando la gente ha del denaro non le importa niente darne via una parte, mentre chi ha mai sentito parlare di poveri che non siano egoisti? I poveri vogliono tutto. Ma non capisci, le gridò lui, non capisci che verrà giorno in cui non ci saranno più né poveri né ricchi. Non dire sciocchezze, rispose Peonia. Egli si arrabbiò, l'avrebbe schiaffeggiata. Mi pento di averti detto tutto, disse seccamente. Ti ho detto tutto per farti piacere, per persuaderti che presto sarai libera. Dopo la venuta di Chiang Kai-shek non ci saranno più schiavi. Oh, Chiang Kai-shek, disse Peonia e rise. Non è che un uomo, non è vero? E poi di nuovo triste. No, proseguì. Dove andrei a sbattere il giorno che fossi libera? Non conosco che questa casa io, e dove mai potrei trovare asilo altrove? No, se il destino mi ha fatto nascere schiava, schiava sono. Era la vecchia rassegnazione degli operai degli stabilimenti che si esprimeva attraverso le rosse labbra di Peonia seduta lì davanti a lui, figuretta avvolta nella veste di raso. Le piccole mani graziose, ornate di giade e di anelluzzi d'oro, giocherellavano con gli oggetti di Aiwan sulla scrivania. Davvero, dunque, bisognava credere che tutti, tranne lui e quelli simili a lui, erano senza speranza. Osservandole le mani, Aiwan fu come avvolto in una nube di tristezza. Di nuovo gli fu chiaro che la rivoluzione aveva ben altro da fare che dar cibo e vesti ai poveri. Molto c'era, molto di più. Quale risposta, ad esempio, poteva egli dare a Peonia quando ella gli domandava dove mai avrebbe potuto trovare asilo fuori di quella casa, Non poteva rispondere, non lo sapeva, nemmeno lui. Ritengo, disse forte e non senza esitazione, che in qualche modo si darà da mangiare a tutti. Dopo la rivoluzione non si permetterà a nessuno di soffrire la fame. Naturalmente le cose dovranno essere organizzate. Ella non rispose subito, ma quando riaprì le labbra, egli si trovò del tutto impreparato alla sua uscita. Peoni alzò briosamente il bel visino, come obliosa di se stessa, e domandò, con la sua vocetta amabile, calda e piena di interesse: Dimmi qualcosa di quel tale, Dien Lan. È un bel giovane? Egli fu troppo urtato per rispondere. Pensare così a Dien Lan era come insultarlo. Le ragazze, ma perché mai c'era della gente che credeva alle ragazze capaci di pensare? Peonia non era nata per la rivoluzione. Ella era quale diceva di essere, una schiava, nata per esserlo. Una schiava che non pensava ad altro che... Non so, rispose asciutto, si alzò di scatto e ho bisogno di dormire ora. Peonia, è quasi l'alba. Ella s'alzò, nascondendo un piccolo grazioso sbadiglio dietro il dorso della mano voltata verso l'esterno. Non aveva capito l'importanza di quello che gli aveva detto e lui le aveva affidato la sua vita. Peonia si protese verso di lui e gli toccò la guancia col dito. Non credere che dimenticherò quanto mi hai detto, lo assicurò. Non mi dimentico mai di quello che dici. Me lo chiudo in me stessa e lo tiro fuori solo quando sono sola, per vedere meglio, per pensarci su. È tutto quello che ho. Oh, ma Aiwan, tu non ti farai mica acchiappare, eh? Certo che non mi farò acchiappare, rispose lui un po' ammansito. E poi sarà per poco tempo ormai. Non ho nessuna fiducia in questa rivoluzione, proruppe lei. Non riesce che a spaventarmi. Così tu non mi avessi detto niente. Però mi aiuta a capire qualche cosa. Che cosa? Domandò Aiwan. Ora negli occhi di Peonia c'era un'altra e più tranquilla espressione. Mi aiuta a capire te? Disse ella. Sì, ora capisco perché il tuo cuore non vuole essere toccato. Aspettò un momento e poi: Tu, Aiwan, sei come un giovane sacerdote, me ne sono accorta mentre parlavi. Ora capisco tutto. Era sulla porta e gli sorrideva lievemente. Buonanotte, disse lui e chiuse la porta. Non aveva la più vaga idea di quel che Peonia avesse voluto dire. E subito se ne scordò perché tanto non poteva essere cosa di importanza. Quello che Peoni aveva detto, quel suo paragonarlo a un giovane sacerdote, erano state per lui parole prive di senso, non ci aveva anzi fatto caso, tutto preso dalle sue fervorose confidenze. Se avesse capito, sarebbe andato in collera. La cacciata di tutti i preti, essendo fra i capisaldi della rivoluzione, che in essi vedeva degli ingannatori del popolo. Aiwan aveva fatto di tutto per aizzare contro i preti gli uomini presso i quali faceva propaganda. Quando capitava di sentirli esclamare Il cielo ci proteggerà, insorgeva Il cielo non vi proteggerà, perché non esiste il cielo. La prima volta che disse loro questo nessuno gli rispose. Era vacanza, la vacanza di 3 giorni dell'anno nuovo, concessa persino ai poveri, e la riunione si svolgeva in un campo fuori dalla città. Aiwan aveva comperato del tè e dei dolci di Capodanno in uno spaccio del contado, e gli operai lo avevano seguito all'aperto dove non c'erano muri. Che cosa abbiamo sopra di noi se non esiste il cielo? Domandò uno del gruppo accennando all'alto. Aria e nuvole, rispose Aiwan. E più in alto? Insistette l'uomo. Niente. Meditarono in silenzio su quella risposta. Ma allora i preti nei templi ci hanno raccontato delle bugie? Domandò ancora l'uomo. Sì, rispose Aiwan. E poiché nessuno interloquiva, domandò: Può qualcuno di voi indicarmi una volta sola in cui il denaro speso davanti agli dèi abbia fatto ottenere da essi le grazie richieste? Ci pensarono su, con l'aria che avevano sempre quando gli diceva qualche cosa che essi non avevano mai udito prima. È vero, disse uno, un giovanotto strabico. A ogni inizio dell'anno ho chiesto agli dèi di farmi ricco ed eccomi qui, più povero che mai. Ah, se il destino ha voluto che uno nascesse povero, neanche gli dèi possono dargli la ricchezza, commentò una voce malinconica. E allora? A che cosa servono gli dèi? Domandò ostile l'uomo strabico. Non chiederò loro più nulla. Se questa rivoluzione ci farà ricchi, abbasso gli dèi. E tutti risero a quella battuta, resi allegri e coraggiosi dalle buone cose che avevano mangiato. Aiwan aveva già imparato che se voleva che essi credessero a quanto diceva, conveniva che prima mangiassero. Tutte le volte che dava loro da mangiare, la loro fede nella rivoluzione era più viva. Perché dovrebbe spendere così il suo denaro? Argomentavano, commentando la sua generosità, se non ci dicesse la verità. È un buon giovanotto. Anch'essi aiutavano Aiwan a credere. Ogni volta che parlava con loro, egli credeva con maggior lena nella sua predicazione, nel fatto che dopo la rivoluzione non ci sarebbero stati più né poveri né ricchi. A tutti i poveri che incontrava per via dava un soldo, pensando: pochi mesi ancora e non ci saranno più poveri, nessuno avrà più bisogno di nulla. Così passò quell'inverno. Una notte fu svegliato da un gran fracasso in casa. Le luci si accesero in giardino e poté udire la voce di suo padre che gridava: Legalo, legalo, ho già fatto chiamare la polizia. Si alzò in fretta, si vestì alla meglio e uscì. Nell'atrio trovò sua madre troppo spaventata per poter scendere. Hanno sorpreso un ladro, disse con voce strozzata, giù nel giardino. Aiwan scese a basso e fuori nell'ombra pungente della notte trovò suo padre che, circondato dai servi, fissava un pezzente che era riuscito chissà come a scavalcare l'alto muro di cinta. Era un magrolino, scuro di pelle, agile di membra, quanto affamato nell'aspetto e quasi morto dalla paura. Il giardiniere lo teneva per i capelli, costringendolo a restare in ginocchio. Mentre il poveraccio si lagnava e piangeva, il giardiniere raccontava con aria di gradasso: l'ho sentito le tegole del muro cricchiolare. Una cadde sulle rocce ai piedi del muro. Allora dissi a mia moglie: certo, è qualche cosa di più del vento. E allora? Abbiate pietà di me, signore, gemeva l'uomo. Sono 2 giorni che non mangio. Cercavo solo di procurarmi qualche cosa da mangiare tra i rifiuti della cucina. Giuro che non sarei entrato in casa. Aiwan stava per gridare: padre, sono sicuro che ha fame. Ma incontrando lo sguardo dell'uomo, vi notò una tale espressione di malvagità e di malizia che la parola gli morì sulle labbra. In quel momento entravano gli agenti, i quali trascinarono il colpevole in prigione. L'arrestato se ne andò con aria cupa e imbronciata, come già rotto a quelle avventure. Avrebbe potuto assassinarci, disse il padre di Aiwan, quando furono di nuovo tutti in casa. Tutti erano alzati, compresi i nonni, la servitù e Peonia, e vociavano. Ma Aiwan tornò al suo letto non per dormire, bensì per restarsene sdraiato con la testa piena di pensieri. Perché gli occhi dell'uomo avevano avuto quell'espressione? Un'altra volta ne aveva veduta una simile e, ripensandoci bene, si ricordò, l'aveva notata pochi giorni prima in Aiko, nell'atto di imbarcarsi su una grande nave. Erano andati a vederlo partire e Aiwan era rimasto con suo padre sul molo finché la nave non ebbe salpato le ancore. Non mi fido di Aiko, aveva detto il padre. Potrebbe sgattaiolarsela dalla nave e nascondersi in città. Sulla nave che doveva portarlo in un paese straniero, Aiko aveva avuto la medesima espressione di quel ladro sorpreso, gli stessi occhi neri carichi di malizia e di disperazione. Aiwan fu ripreso dalle sue perplessità. Che fare se il cibo e l'abbondanza per tutti ancora non bastavano? Ma anche ora eluse la domanda, come tutte le volte che essa gli si ripresentava alla mente. Meglio credere che tutto sarebbe migliorato, senz'altro, non importa come. Dopo la rivoluzione, doveva credere che Chiang Kai-shek avrebbe raddrizzato tutti i torti. Tutto era semplice come il giorno e la notte. Quando il sole sorgeva, era giorno.